Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Ci siamo, Oscar, eccoci! Eccoci qua, in questo 21 di marzo, vedrai che scoppiettanti notiziette che tiri fino dopo i santi. Come andiamo? Tutto bene? Bene, ti vedo su di giri. Che notizie ti trovate? Ma mi sono su di giri perché è un paese meraviglioso. Questo è cui la RAI prende sul serio il suo dibattito di servizio pubblico per una stupidaggine sulle cose dell'est. Orrenda, ma capisci? E la RAI a quel punto, travolta dal livello delle sue trasmissioni, non di servizio pubblico, ma commerciale di intrattenimento, deve fare la finta servizio pubblico che per esigenze di servizio pubblico chiude la trasmissione. Non è una trasmissione di servizio pubblico, è una trasmissione commerciale. Cara RAI, basta canone. Però canone. Lo scivolone di quelli. Ma certo che è uno scivolone, ma però ripeto, dire che in nome del servizio pubblico, quando sono trasmissioni di mero intrattenimento commerciale, il cui livello a volte... Io ho sentito di peggio, RAI, persino di quella roba lì, a dire la verità. Però, comunque, dai, andiamo ai santi, va. Lasciamo stare i fan. Viva la RAI, che fa crescere strani. Eccoci. Oh, guarda che ha chiuso tutto Eva Enger dicendo che dorme col pigiama con gli orsacchiotti. Direi che è la chiosa più dignitosa di tutta questa... di questa vicenda, sì, in effetti, fin dall'inizio e dalla fine, passando per il mezzo, rende alla RAI quello che gli deve, cioè noi abbiamo i problemi nostri, qui a Sole 24, ma insomma la RAI, il canone noi almeno non lo prendiamo, qui si dissipano soldi dell'azionista, per così dire. Va bene, allora San Serapione. Prega per noi, Serapione, Anacoreta. Adesso. San Serapione. Adesso voi conoscete un Serapione? Che ti dica, è un grande anacoreta dei primi secoli. Per il resto poi c'è anche un altro santo meraviglioso, il primo vescovo di Catania, pensa, e fu mandato da San Pietro in persona, Birillo. Birillo. E San Lupicino, abate del Giura. Questi sono oggi nomi proprio comuni. È bello Lupicino. Penso che se avessimo un altro figlio, Lupicino. Lupicino, ecco, ringraziamo davvero il fatto che penserai bene ad avere il terzo figlio. Penserò per ragioni di reddito più caro. Dipendesse da me, devo dire, continuerei. È un bel impegno, ma insomma, meraviglioso, devo ammetterlo. Allora, nel 1961 che esordivano i Beatles al Cavern Club di Liverpool, bei tempi, e nel 1999 Roberto Benigni vinceva l'Oscar come miglior interprete della vita bella, che vinse anche l'Oscar come miglior film straniero. Così, infatti, Roberto, tra coloro che fanno gli anni, Tullio Solenghi, che a me è sempre stato simpatico, Gianni Barbacetto, grande collega secondo me, Paolo Belli, che mi è sempre stato simpatico, quello di sotto questo sole, l'altro di biciclette, ma ohimè anche vesto le gramaglie, l'autore dell'inno della Juventus. Oddio, e non lo sapevi che sì, Paolo, certo, Belli, certo, è l'autore, sì, di, sì, Juve. Oggi pensa che c'è un profilo, una scivolata come quella di Paola Perego nella vita, che si concede a tutti, anche Paolo, so. Paolo, ti vogliamo bene comunque. Oggi è un profilo di giornate mondiali, perché giornata mondiale della sindrome di Down, e questa è una cosa serissima a dire la verità, giornata internazionale proclamata dall'ONU per l'eliminazione della discriminazione razziale, e va bene, giornata serissima. Io ne ho vista una delle foreste. Delle foreste, oggi in teoria ce n'è, è una giornata anche italiana del polline, poi è giornata mondiale della poesia. No, ti garantisco, ci sono dei giorni che sono imbarazzanti. Polline, piantiamola lì, facciamo un appello. Che è una cosa seria per chi soffre di allergie, ma vabbè. Allora, in tutto questo volevo segnalarti tra i fatti più divertenti con cui cominciare il fatto che il ministro Lotti, che come sai è ministro dello sport, domina perché ha un suo candidato renziano per l'agenzia del farmaco e quindi Remuzzi non va bene perché il ministro dello sport blocca tutto Lotti perché c'è un cardiologo, Carlo Gaudio, da sistemare. Ma dove vogliamo arrivare, cari ascoltatori? Per carità di Dio, tutti quanti abbiamo i piedi per terra, sappiamo che la politica è fatta di nomine che vengono da circoli e circoletti, però capite che non va bene. E poi, e qui concludo le mie segnalazioni iniziali, mi ha molto colpito anche questa storia classica dello storytelling, cioè della politica che fa gli annunci, i bonus, il bonus mamma domani, poi naturalmente dopo che hanno fatto gli annunci la norma non c'è. L'INPS si trova a dover dire, dice, a chi vuole il bonus? Ragazzi, questo annuncio non ha i criteri per cui noi possiamo capire come farvelo riscuotere. Ecco, mi sembra un'ottima fotografia di come spesso vanno le cose in Italia. Ci fanno sapere il caro Luca da Como che oggi è il Capodanno persiano, la mettiamo così, e anche pare la giornata della memoria, ma non ricordo. Giornata della memoria in che senso? Della memoria, proprio la mnemotecnica. Una battuta, ma non ricordo. No, ci segnalano la giornata della memoria. Vabbè, cari ascoltatori, dando il numero di telefono che è il solito 800 24 00 24, oggi sul Corriere della Sera c'è questo numero, caro Oscar: 222 magistrati sono prestati ai palazzi, cioè lavorano, ma sono distaccati nelle istituzioni, ambasciate, ministeri. Anche all'Olaf, per esempio, abbiamo il magistrato Kessler che abbiamo intervistato settimana scorsa. Sì, all'ONU, in giro per il mondo, le istituzioni, corte, anche il Quirinale, a Europol, a Eurojust, nelle strutture dell'Unione Europea. Tra l'altro è stato Renato Brunetta a chiedere e a voler sapere quanti sono il conto preciso del CSM, che questo è il conto che è anticipato dal Corriere della Sera, ma insomma rilancia il tema soprattutto dei magistrati che sono magistrati ma magari sono o fuori ruolo o sono distaccati. In alcuni casi molti magistrati, molti, forse nelle passate stagioni politiche erano di più, fanno politica. Adesso sono un po' pochi quelli che sono in Parlamento e mantengono l'aspettativa, chiedono l'aspettativa e quindi mantengono il ruolo in magistratura. Sai che per esempio la senatrice Finocchiaro ha l'aspettativa dall'88, cioè mantiene, cioè ormai è una politica, nel senso il problema che si pone è: va bene che la Costituzione e la Corte Costituzionale garantiscono l'elettorato passivo anche ai magistrati, ma funziona abbastanza quanto c'è scritto nell'ordinamento per garantire che il magistrato, quando poi appende la toga al chiodo, per il momento però, e fa il politico, non c'è un mix delle due cose? E poi, quando smette e rindossa la toga, vedi il caso della polemica, no? Sull'ex sottosegretario, che ha pesato sul voto, esatto, per Minzolini e così via. Ha senso poi tornare a consentire ai magistrati perché di farlo? Gian Nicola Sinisi è stato politico sottosegretario di centrosinistra e poi è tornato in magistratura, ha fatto parte del collegio che ha giudicato e condannato Minzolini. La dico tutta. Per cui c'è la polemica anche la dico su tutta. Questo. In questo io la penso come la presidente attuale della Commissione del Giustizia del Senato, che è una magistrata in aspettativa. Ma se è un illecito disciplinare tipizzato dalla legge, assumere incarichi di partito essendo magistrato un'aspettativa che fa politica, come fa Emiliano a candidarsi segretario del partito? Guarda, questo è una tematica che anche oggi l'ex magistrato Casson analizza in un'intervista alla Stampa, tra l'altro dicendo: beh, però è curioso, gli si chiede adesso a Emiliano di lasciare la toga se vuole andare nel PD, però governa una regione già da magistrato, quindi è curioso che glielo si chieda per entrare nel PD ma nessuno abbia sollevato questo problema da presidente di regione. Il problema però è che naturalmente nell'ordinamento italiano, che è un po' fatto a Bisanzio, e il caso di illecito disciplinare tipizzato è quello dell'adesione a incarichi dirigenziali di partito a tessera di partito, non è quello dell'assunzione a cariche istituzionali dopo le elezioni, il cui diritto all'elettorato passivo è garantito dalla Costituzione e dalla sentenza della Corte. Ovviamente io sono d'accordo con l'obiezione, perché in sostanza se sei presidente di una regione non è che non fai politica. Sì. Però di sicuro assumere incarichi e candidati alla guida di un partito, almeno quello mi parrebbe de plano, che non è compatibile. Vogliamo discuterne con voi e con Alfonso Sabella, che salutiamo e ringraziamo, magistrato che per una parentesi politica, insomma, ha fatto l'assessore a Roma. Beh, insomma, parlare di politica nel mio caso è un po'... No, vabbè, insomma, diciamo, l'amministratore, ha fatto l'amministratore, ecco, è stato nella giunta Marino. Sabella, però il tema è vecchio, un dibattito che però viene riproposto. È giusto o no che un magistrato che entra in politica lasci la toga, secondo lei? Sarebbe chiaramente auspicabile che un magistrato che fa una scelta di carattere politico poi non rientri in magistratura, ma questa è una scelta che va rimessa semplicemente alla, diciamo, alla sensibilità del singolo, perché comunque il diritto all'elettorato passivo, come dicevate prima, è pienamente riconosciuto dalla Costituzione ed è giusto che anche i magistrati partecipino alla formazione della vita politica. Del resto, adesso siamo qui tutti a far critiche, però io credo che l'apporto, che la competenza di un magistrato possa dare alla vita politica di questo Paese non può far altro che far crescere, diciamo che dare un apporto certamente positivo e certamente significativo. Io, per quanto riguarda, oggi si stanno mischiando un po' i ruoli politici, i ruoli amministrativi e i ruoli istituzionali dei magistrati. Abbiamo circa 200, forse un pochino di più, 200 magistrati che sono fuori ruolo, però credo che una settantina di questi lavori al Ministero della Giustizia ed è giusto che ci siano i magistrati al Ministero della Giustizia, visto che si tratta comunque la materia è quella, specifica competenza. Sì. Dall'altro canto poi abbiamo una serie di magistrati che lavorano in istituzioni e dove, vi posso dire, sulla base della mia piccola esperienza, possono dare un apporto decisamente importante. Ecco, comunque ricordiamoci che il magistrato è sempre un funzionario, un dirigente statale, sì, ed è giusto anche che possa dare questo contributo, certe volte è anche fondamentale. Parlavate del mio caso, io ho fatto formalmente il politico, nel senso che sono stato assessore alla legalità al Comune di Roma, ma non mi sono sentito e non mi sento un politico, perché io comunque ho fatto questo ruolo da tecnico in un momento di grande crisi, in un momento di fibrillazione particolare di quella città, dove c'era lo scandalo Mafia Capitale, c'era da sistemare il meccanismo degli appalti. No, infatti la questione è più su chi entra in Parlamento, Sabella. La questione sono 4-5 adesso, cioè sinceramente. Ora io dico, io credo che i problemi per garantire l'indipendenza e l'autonomia della magistratura in realtà sia un altro. È un pochino difficile parlarne, per me è molto doloroso da magistrato parlarne, però io credo che un intervento che riguardi tutte le oltre 7.000 toghe in Italia sia forse più doveroso rispetto a quello che ne riguarda 4-5. Per carità, ho letto il tuo testo di legge, è perfetto sostanzialmente, insomma, si può essere d'accordo su una singola norma o due, ma più o meno sono le stesse regole che adesso il CSM di fatto applica. Nel mio caso, avendo fatto 10 mesi l'assessore a Roma, quindi formalmente politico, devo stare per 5 anni a Napoli, ho fatto questo bel guadagno. Ecco, no. Devo dire che con la nuova legge almeno non ci avrei perso soldi, perché vedo che nella nuova legge c'è un articolo che prevede che si mantenga la stessa retribuzione economica rinunciando all'indennità di carica. No, però almeno c'è questo, spieghiamolo. L'indennità di carica che era la metà del mio spieghiamolo agli italiani, almeno chi fa politica, diciamo, se torna in ruolo poi per 5 anni non può stare nella città dove ha fatto politica. Sì, ecco. I meccanismi sono se uno lo fa in Parlamento, vai. Per esempio, non può più svolgere per un certo periodo funzioni inquirenti, cioè fare il pubblico ministero, e devo dire la verità che anche adesso il CSM a me ha impedito di fare il pubblico ministero. Io non l'avrei chiesto, perché realmente, però in ogni caso mi hanno impedito di fare il pubblico ministero, adesso faccio il giudice. Ma questo, diciamo che già il Consiglio Superiore ha dato delle regole. Il problema invece è, credo che per garantire realmente l'indipendenza e l'autonomia della magistratura, che bisognerebbe agire invece sul meccanismo delle correnti, perché vede, la differenza che si dice sempre tra il politico e il magistrato è che il magistrato ha la competenza mentre il politico la rappresentatività. Perfetto, giustissimo sul piano teorico. Il problema è che molto spesso questa stessa rappresentatività viene trasportata nella scelta della classe dirigente all'interno della magistratura, dove purtroppo il meccanismo di selezione della classe dirigente è più determinato dall'appartenenza alle correnti che molto spesso che dal reale merito dei magistrati. Vabbè, questo è un problema molto più serio, su cui forse è il caso che il Paese si interroghi. Oscar, questo è un punto dolente sul quale Sabella... Nessuno può impedire al magistrato di esprimere le sue opinioni o di avere un'idea, tra virgolette, politica. però, sì, però non devono influenzare le carriere, ecco, queste. Questo ci mancherebbe. E qui non è che si tratta di influenzare, qui si tratta di deciderla, di determinarla attraverso spartizione a tavolino, perché poi mi dispiace da magistrato ammetterlo, pentiranno tutti i miei colleghi, ma è la realtà, tutti diranno che non è così, però se invece andiamo a vedere così, quali sono gli incarichi direttivi dati, io non credo che tutti i procuratori della Repubblica siano i migliori candidati possibili a quella carica. Molto spesso l'applicazione del manuale Cencelli sembra... Ma non solo, anche il ritardo nella sostituzione della nomina apicale, che come, insomma, come alcuni sanno, ma insomma è la ragione fondamentale per la dilazione dei termini di pensionabilità per gli uffici apicali dell'ordine giudiziario, dipende in larga misura dal fatto che le correnti non trovavano accordi per le attribuzioni delle nuove nomine. Questo è un fatto che tutti i colleghi che si occupano di questo ce lo hanno scritto per mesi e mesi. Personalmente credo che questo sia un problema molto più importante una migliore regolamentazione che indubbiamente sì, è vero che sono pochi adesso nel Parlamento, però ecco, per ritornare al punto, Casson che è nel Parlamento e lui si è dimesso sul caso, adesso non le chiediamo di entrare in merito alla sentenza che c'è stata, ma sul caso Minzolini, Isabella dice secondo me Sinisi ha fatto malissimo a non astenersi. Sinisi, guardi, però a norma tecnicamente io non c'è nel codice una causa di astensione. Paradossalmente Sinisi si poteva astenere, ma la sua astensione sarebbe stata rigettata dal presidente del tribunale, perché non c'è una ragione di astensione. Io però vede, credo che personalizzare il caso, cioè io penso che un magistrato abbia quella dignità, quel valore, quel livello etico che gli permette di essere terzo in quel caso. In ogni caso era un componente di un collegio, c'erano altri due magistrati, sì. E non credo che quella sentenza sia stata influenzata. Sabella, le chiedo un'opinione su questa... Tecnicamente, guardi, per me non c'erano ragioni di astensione, proprio sul piano tecnico. Proprio non l'opportunità è diversa. Senta, le chiedo un'opinione su questo. La Presidente della Commissione Giustizia del Senato, che appunto è un magistrato in aspettativa, Donatella Correnti, a Radio Radicale ha dichiarato... Ferrante, ha dichiarato... Davigo, come presidente dell'ANM, fa politica sì o no? La mia risposta, dice la Ferranti, è sì, perché è alla testa di un sindacato, e lo dico da magistrato, fa sì, e però lui continua a giudicare, cioè continua a svolgere la sua funzione di magistrato e giurisdizionale. È corretto questo? A me pare di no, ha detto. A me è sembrata un'opinione coraggiosa e io devo dire la verità, la condivido, ma la condivido con rispetto per Davigo, però lui esercita una funzione che è fare politica, come capo del sindacato è un contributo fondamentale alla vita politica del paese e rilascia giudizi taglienti, come sappiamo Davigo è stato eletto per questo. Lei come la pensa su questo? Beh, io penso che Piercamillo o il presidente dell'ANM, chiunque esso sia, difenda comunque degli interessi di categoria. Quindi mettiamola sul piano del lavoratore ed conseguentemente fa una politica, ma fa una politica che è comunque legata alle esigenze della categoria che rappresenta. Quindi sul ruolo dell'ANM, sul fatto che i magistrati che facciano parte del consiglio direttivo dell'Associazione Nazionale Magistrati, da premettere, io non sono iscritto all'ANM. Dico, ma sul ruolo che hanno è indubbiamente un ruolo importante, un ruolo costituzionalmente garantito, un ruolo di tutela del lavoro dei magistrati, secondo me non c'è nessun tipo di me la penso in maniera un po' diversa dall'onorevole Ferranti, credo che non c'è nessun tipo di incompatibilità sul fatto che Davigo, il presidente dell'ANM, o i componenti del comitato direttivo dell'ANM continuano a svolgere la loro attività professionale, perché questo non può certamente influenzare in alcun modo quelle che sono le loro scelte giudiziarie. Il discorso ovviamente diverso laddove gli equilibri di forza all'interno dell'ANM si traducono poi, come avviene purtroppo spesso nel nostro paese, si traducono poi in scelte che riguardano la progressione in carriera dei magistrati e soprattutto l'attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi. Beh, questo credo che sia il problema decisamente più grave. Il fatto che il presidente di quello che potrebbe essere, non lo è, ma potrebbe essere il mio sindacato, continua a svolgere la sua attività, è chiaro che non posso dire che il presidente del sindacato dei metalmeccanici può continuare a fare il metalmeccanico, perché mi rendo conto che la differenza è notevole, ma non credo che questo possa influenzare le scelte questa è la sua opinione. Intanto noi la ringraziamo, Alfonso Sabella, per essere stato con noi, ricordiamo magistrato, adesso a Napoli, è stato ex assessore alla legalità a Roma. Vediamo se c'è un ascoltatore prima di andare in pubblicità. Sandro dalla provincia di Piacenza, poi mi devi dire che cosa ti ha sfruculiato di altre notizie, perché insomma ci hai lasciato un po' così, detto. Sandro, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Volevo solo chiedere, io faccio l'autista, quindi volevo solo mi faccio una domanda da da persona ignorante. Come si fa a parlare di giustizia in Italia quando si sente che la magistratura o i magistrati sono graditi o invisi ai politici? Ha qualche riferimento specifico o in generale, insomma? Diciamo in generale, perché quando si sente che alcuni giudici devono essere diciamo così eletti, c'è quello che viene: no, quello non è gradito alla sinistra, quello non è gradito a destra, quello non è gradito al centro. Allora come si fa a parlare di giustizia quando i politici, la magistratura è in mano alla politica e i magistrati fanno politica? Beh, insomma, adesso non è che vengono eletti però i magistrati, cioè eletti quando vanno in Parlamento, lei dice, quelli che vanno in Parlamento. Esatto, graditi. Cioè, come si fa a dire giustizia quando questa gente poi pensa di andare in politica? Se la magistratura fosse libera, veramente libera, non la manderei a votare, non li manderei a votare. Addirittura, quindi toglierebbe l'elettorato, Posso dire una cosa, forse sarà assurda, io non farei eleggere parlamentari o senatori gli avvocati, perché questa gente si sono fatte le leggi per come fa comodo a loro. Questo allora vale, Sandro, per ogni professione. Quindi avvocati no, magistrati neanche votano. È vero che avvocati e medici, per esempio, hanno ispirato tutte le scelte sull'università italiana. Questo è vero, però con questo criterio... Allora, non potrebbero entrare i docenti universitari? Per esempio, io conosco uno che direbbe solo a Rignano si può candidarsi, gli altri no. Ecco, sai com'è, ognuno poi ha le idee. Dai, andiamo un attimo in pubblicità. Lotti che c'ha il candidato. Ma questa non l'ho letta. Ma dove l'hai letta? Farmaco, dai. Ma stiamo su Repubblica. Ma come si fa? Cioè, Lotti, capisci? Nomine sanità, Lotti sfida le regioni. E chi è? Ora è Ettore Fieramosca. Dai, in pubblicità. State ascoltando un programma offerto da Office 365, il tuo ufficio sempre con te. Provalo a un euro. Vai su aruba.it. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci qui, caro Oscar, c'è il nostro Pasquale da Salerno. Buongiorno, cosa ci voleva dire che lì da un po', Pasquale? Buongiorno a lei, al dottore, il suo collega che mi fate compagnia dalla mattina. Io volevo dire solo questo. A me, io non sono dell'idea che la presenza dei magistrati in Parlamento possa essere più o meno rilevante rispetto alle scelte del Parlamento stesso, perché insomma ho qualche dubbio che comunque anche dall'esterno i magistrati, qualora dichiarati non eleggibili, non possano influenzare le scelte del Parlamento attraverso tutta una serie di altri strumenti, eccetera. Quello che però non condivido è l'attività amministrativa che spesso viene affidata ai magistrati, soprattutto anche quelli in pensione, laddove in un altro momento storico erano state eliminate anche i doppi compensi e che oggi invece sono stati ripristinati, soprattutto per i pensionati che vanno a fare i capo di... È andata via, c'è la linea un po' ballerina, insomma, cade lì. Comunque fare il magistrato in che era in ascolto, ha levato la linea. Comunque si capiva, sono i magistrati che hanno doppi incarichi, magari consulenze. Oscar, che cosa ti ha colpito che prima dicevi? Scusa, io tra le tante cose, oltre a Lotti, continuo a dire a Lotti, allo storytelling del bonus bebè, mi hanno detto questo. Ieri tutti quanti a ridere per la fotografia, no? Che hai visto Antonio Razzi con Bashar Assad. Abbastanza vergognoso. Ecco, ovviamente. Ridere con Bashar Assad, si parla di 200.000 morti, ecco. Però ridiamo ormai più, di tutto. Milioni di profughi. Facciamoci un bel selfie con Assad. E che guarda poi la dice lunga, perché naturalmente uno può pensare Bashar Assad non ha idea chi c'ha di fronte. No, non prendiamoci per i fondelli. Se non hai idea è ancora peggio. Ecco, no, ma non è così. Nel senso che i servizi segreti siriani non sono proprio gli ultimi della terra. E il segnale che trasmettono è proprio l'irrisione, per così dire, no? L'hanno scelto apposta, entro un attimo strumento di quello. Però a fianco di questo nessuno ride. Tutti vedo, quindi chi sono io per porre dubbi? Come sempre, io mi sento un coglione di fronte a tanta autorevolezza. Tutti i giornali oggi hanno chi uno, chi due pagine su questa offerta dell'Italia. Ieri l'incontro con al-Sarraj in Libia, gli diamo motovedette, elicotteri per frenare i migranti. E io mi pongo una domanda. Tutti gli osservatori, il mondo, cari ascoltatori, ride di fronte a questa posizione italiana. E ha ragione, perché Sarraj non controlla neanche Tripoli. Uno, due. Nelle ultime settimane ha perso il controllo di un terzo di quello che le sue residue milizie controllavano ancora. Ed è invece Haftar, che sta dall'altra parte della Libia, il sostegno della Russia, dell'Egitto, eccetera, eccetera, quello che sempre più si espanda nel controllo della Libia. Quindi noi, cioè, a uno che non controlla neanche Tripoli e dai cui pezzi di costa viene il flusso di migranti che vengono pescati dalle navi italiane oramai subito alle cose libiche, come testimoniato da tutti quelli che parlano oramai di un servizio taxi, cioè noi li raccogliamo al limitare delle coste, ma vengono dalla costa di Al-Sarraj, noi diamo a lui gli elicotteri e le navi, dai. Questo non so, vogliamo coinvolgere a partire da qui Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia. Buongiorno Meloni. Salve, buongiorno a lei e a Oscar Giannino, buongiorno. Visto che voi farete la manifestazione Italia sovrana in Europa il 25 marzo, non so, le garba questo appoggiare la Libia e dare un po' di fondi alla Libia, oltre che mezzi e strumenti per fermare l'immigrazione? Ma guardi, a me sembra che anche quanto accaduto ieri sia più che altro, diciamo, un modo di gettare un po' di fumo negli occhi a fronte di una questione che è molto complessa e sulla quale, rispetto insomma anche a quello che sentivo dire da Oscar Giannino, io penso che una nazione sovrana, la manifestazione che noi facciamo sabato 25 si chiama proprio Italia sovrana in Europa, penso che una nazione sovrana debba preoccuparsi soprattutto di difendere il suo interesse nazionale, una cosa che l'Italia non sa fare e non fa a dispetto di tutte le altre nazioni del mondo. Ora, noi abbiamo un problema con gli immigrati, con i migranti. Siamo l'unica nazione che governa i confini esterni dell'Unione Europea che non riesce a tenere i confini esterni dell'Unione Europea. Io penso che piuttosto di chiedere all'Unione Europea di spartirsi con noi una media di 200.000 immigrati clandestini, poi mi arriverà una querela per questo motivo e mi denunceranno, che noi facciamo entrare mentre le altre nazioni governano i loro confini esterni, sarebbe più serio coinvolgere l'Unione Europea in una iniziativa che io continuo a definire, questa cosa ci somiglia ma non c'entra niente, un blocco navale al largo delle coste della Libia, che è una cosa che si può fare, anche certo mettendosi d'accordo con i governi che ci sono, che allo stato attuale sono addirittura tre, sì. Uno riconosciuto dalla comunità internazionale, uno non riconosciuto o comunque riconosciuto da altre nazioni, sì. E purtroppo io a Oscar devo dire, i tuoi interlocutori non te li scegli, quando si parla di dire ma allora andiamo a dare i soldi alla Libia piuttosto che andiamo a dare i soldi a Erdogan, piuttosto che uno parla con quelli che c'ha. E io dico da tempo che c'è un governo, ci sono due governi, ci sono tre governi, sono disposto anche a mettermi d'accordo con tutti e tre, prima che si mettano d'accordo loro, che è quello che ha detto la politica finora, aspettiamo che i tre governi si mettano, non si metteranno d'accordo mai. Comunque una sorta di blocco navale, questo, una sorta di blocco navale. Però si vuole un blocco navale, poi io, quando si dice blocco navale, tutti che ti ridono in faccia, come al solito, no? Ma che dite, populisti, cretini, imbecilli, eccetera. Adesso l'ha proposto il Consiglio Europeo, il blocco navale. No, anche cioè, perché per il momento è il taxi navale. Con la Turchia, esatto, perché facendo. Al momento noi facciamo addirittura, allora noi è stato dimostrato che noi andiamo a prendere addirittura le navi delle organizzazioni non governative, sì. Presunte o reali, vanno a prendere questi migranti nelle acque territoriali libiche. No, ma proprio su diretta segnalazione, oramai ci sono tre procure che indagano. Che sono d'accordo, cioè che vuol dire che sono in contatto con gli scafisti, per cui noi ci siamo ritrovati a fare il taxi della tratta degli schiavi, cioè noi siamo al servizio della tratta degli schiavi moderni. Ma io dico, non mi sembra una cosa seria. Meloni, però, né di scherza, sì. Perché questo lavoro andava fatto in maniera diversa e andava fatto da un pezzo. Ma il tema, l'unico tema serio per affrontare la questione dei migranti è il tema del blocco navale. Meloni, se non l'ha visto oggi il Corriere, Nando Pagnoncelli fa il nuovo sondaggio sui consensi e il Movimento 5 Stelle è dato al 32% in testa. Ma se si unisce Lega Nord, Forza Italia, Fratelli d'Italia e pure Alternativa Popolare di Alfano, sareste in testa voi. Mettiamoci pure Casini, Mastella. Il problema è questo. Che diciamo secondo me, atteso che Alternativa, io scherzando ho detto il partito d'Alfano più che Alternativa Popolare, sembra Alternativa alla volontà popolare o al voto popolare. Non è area d'accordo, diciamo Alfano l'abbiamo tolto allora, Alfano via, diciamo cominciamo a toglierne uno. Che non credo che poi i consensi di Alfano siano proprio così copiosi, ci rinuncio volentieri. Tutto il resto si può tentare, nel senso che a me interessa, insisto nel dire che mi interessa fare una cosa seria. Tante esperienze, compreso per esempio quelle amministrative di Roma, dimostrano che non necessariamente se tu metti insieme tutto il contrario di tutto prendi tanti voti. L'esempio qui, insomma, del confronto tra la mia candidatura e quella al tempo di Marchini lo ha dimostrato ampiamente. Però è vero che nel centrodestra si possono trovare delle sintesi e obiettivamente si può dare un governo, secondo me, credibile alla nazione. Anche con Berlusconi? Nella manifestazione che noi facciamo sabato, che approfitto, sì, scusate, all'Angelicum, via 4 novembre a Roma, la mattina ci sono molte lexio magistralis di personaggi importanti. C'è anche una tavola rotonda, parliamo sempre del tema dell'Europa, sabato è l'anniversario della firma dei trattati di Roma. Noi facciamo anche, stiamo lavorando anche per fare una tavola rotonda per capire tra i vari esponenti dei movimenti, sì, di centrodestra, se c'è la possibilità di una sintesi sui temi dell'Europa, che sono la vera questione, cioè le due vere questioni di rapporto con Forza Italia. Secondo me sono il posizionamento in Europa, che io però considero innaturale per quello che riguarda Berlusconi, cioè che Berlusconi stia nel partito della Merkel e di Sarkozy, per intenderci, che gli ridevano in faccia il PPE, o nel partito di una Merkel che è stata anche quella che si sa, insomma, ha lavorato perché lui non stesse proprio al governo. A me sembra assolutamente innaturale. E poi c'è il tema del rapporto con Renzi, per cui io ho chiesto, siccome non è che io mi candido contro Renzi perché mi faccia antipatia, mi candido contro Renzi perché Renzi secondo me rappresenta l'esatto opposto di una politica che vuole difendere gli interessi dei suoi cittadini. Quindi per me non è possibile allearmi con Renzi. Allora io chiedo, oltre a, diciamo, dei contenuti chiari, anche quella che è stata definita la clausola antinciuccio, cioè a dire che nel dubbio, se tutti i partiti che fanno parte di questa alleanza si impegnano proprio solennemente a non fare in nessun caso accordi col Partito Democratico, noi facciamo una cosa più seria. Allora si può pensare così. Beh, insomma, la ringraziamo, grazie Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, che ci ha posto alcune questioni politiche sul centrodestra. Intanto ieri sera c'è stato questo interessantissimo incontro per la prima volta tutti i candidati all'Eliseo francese in televisione. Devo dire, è stato molto molto interessante. La Le Pen li ha fregati un secondo alla fine con un grafico sull'euro, gli altri sono stati zitti. Il grafico era sbagliato, ma lei è stata abile. Ha tirato fuori alla però fine, Macron quindi è stato più eroe di tutti, secondo me. Vedremo anche, si voterà ovviamente per l'Eliseo tra qualche tempo, tra qualche mese. Grazie, ci dobbiamo fermare qui. Grazie a tutti, ci ritroviamo domani. A domani. Ciao. A domani.